Noi siamo partiti il 24 di aprile, quando insomma abbiamo fatto presente al governo che non potesse esserci una strategia di graduale ripresa delle attività lavorative senza accompagnarla necessariamente con una strategia di sostegno ai bambini e agli adolescenti che erano rimasti in casa, con tutto quello che ha comportato sospendere i percorsi educativi di socialità, e di sostegno alle famiglie nella gestione dei figli nel momento del ritorno al lavoro. Questo anche perché non vogliamo accettare passi indietro dal punto di vista della conciliazione dei tempi vita e lavoro per quanto riguarda le donne, anzi andrebbero fatti molti sforzi in più in questa direzione. Quindi la preoccupazione era questa: abbiamo riunito a un tavolo di confronto tra le migliori competenze ed esperienze che abbiamo fortunatamente in questa regione sui servizi educativi per l'infanzia e sui servizi estivi. C'erano gli enti locali, c'erano la sanità pubblica naturalmente, i coordinamenti pedagogici territoriali, ma anche alcuni esperti dell'università e gli enti gestori. Abbiamo provato a immaginare delle modalità diverse per gestire in sicurezza le attività estive per minori. Abbiamo poi redatto un documento che già a fine aprile abbiamo condiviso con il governo. Ci sono stati due incontri con le ministre Azzolini e Bonetti, e settimana scorsa, anzi il 17 maggio, insieme al DPCM, è stata finalmente emanata questo protocollo di linee guida nazionali, che siamo felici abbiano preso ad ampio riferimento le proposte molto concrete e articolate che avevamo portato come Regione Emilia-Romagna. Da lì naturalmente il DPCM chiedeva alle regioni di specificare ulteriormente quelle linee guida. Noi l'abbiamo fatto e finalmente ieri abbiamo approvato questo protocollo, cioè abbiamo pubblicato questo protocollo regionale, il quale naturalmente è stato poi visto anche insieme a queste parti, e abbiamo sentito anche i sindacati. Il tema era cercare di capire come costruire l'equilibrio tra il diritto alla socialità e all'educazione e la massima tutela della sicurezza e della salute sia dei bambini che delle loro famiglie, che naturalmente di tutto il personale coinvolto, quindi sia degli operatori sia di eventuali volontari che fossero coinvolti. Tra le misure ci sono un triage, diciamo così, all'ingresso, le attività prevalentemente all'aperto, insomma tutta una serie di misure che possano permettere di svolgere in sicurezza queste attività. La questione degli 0-3 anni è ancora però irrisolta, ma state lavorando anche su quello? Sì, perché diversamente dal documento di proposte che avevamo inviato al governo, che riguardava anche quella fascia, il governo, anche dopo il confronto con il Comitato Tecnico Scientifico, ha preferito nel DPCM prolungare la sospensione dei servizi educativi, quindi di nidi e materne, e permettere di organizzare i centri estivi, diciamo, dai 3 anni in su. Noi abbiamo però chiesto di proseguire il confronto su questo tema, perché non si può lasciare la fascia 0-3 sguarnita di risposte fino a settembre. Anzi, abbiamo proposto insieme alle ministre, al Comitato Tecnico Scientifico, di integrare queste linee guida nazionali e di magari prenderle a spunto anche per immaginare una graduale ripresa anche dei nidi e delle materne, sganciando, diciamo, il loro tempo da quello della scuola che è già fissato per settembre. Questo perché sono servizi essenziali, di solito danno risposte anche d'estate, e quindi insomma sarebbe importante riuscire a recuperarli, ecco. Per cui noi ci siamo mossi sempre in spirito di collaborazione con il governo, però anche fornendo sempre proposte concrete per avanzare, per fare passi avanti. Adesso lunedì doveva discuterne il Comitato Tecnico Scientifico, si è preso ancora qualche giorno. Abbiamo chiesto di fare in fretta, perché naturalmente le famiglie stanno aspettando risposte concrete. Ci ha descritto questo percorso che ha coinvolto appunto anche gli enti gestori, gli enti locali, esperti universitari, eccetera. È immaginabile che un percorso del genere possa funzionare anche per la riapertura delle scuole a settembre in presenza? Sì, è un auspicio che noi abbiamo espresso anche nei nostri documenti, nelle nostre comunicazioni, perché ci sono delle esperienze preziose anche nella nostra regione di scuola all'aperto. E allora forse, ecco, ci piace pensare di poter uscire da questa crisi portandoci dietro qualcosa di positivo, no? Cioè provando a reimmaginare anche i nostri servizi, arricchendoli. Noi abbiamo appunto abbiamo chiesto grande flessibilità nell'utilizzo degli spazi, a patto che siano spazi a norma dal punto di vista della sicurezza, però anche utilizzare fattorie didattiche, spazi di colonie estive, spazi culturali e sportivi nelle città. Il punto cruciale del protocollo è che, per, diciamo, contenere al minimo i rischi, bisogna organizzare le attività in piccoli gruppi di bambini e ragazzi per fasce di età, con gli stessi operatori che li seguono per l'intera durata delle attività, naturalmente con rispetto di tutte le misure di igiene personale, sanificazione, pulizia dei materiali, triage appunto. Quindi ci vorrà un grande sforzo di trovare spazi adeguati nei nostri territori, e ci vorranno molte risorse aggiuntive. Su questo fortunatamente il governo ci ha già dato una prima significativa risposta, stanziando 150 50 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 35. Inoltre hanno accolto la nostra proposta di far usare flessibilmente il bonus babysitter, che molte famiglie non hanno, diciamo, ritenuto di utilizzare per i babysitter, si può invece utilizzare anche per accedere a questo tipo di servizi per l'estate.